Siamo Homo Ludens, coloro che giocano. Dal momento in cui entriamo in questo mondo, inventiamo modi per divertirci e condividere le nostre invenzioni con chi ci circonda. Nessuno ci chiede di farlo e nemmeno ci servono ragioni per creare. È semplicemente quello che siamo. Ci troviamo a vicenda e ci sfidiamo l'un l'altro. Ridiamo insieme e piangiamo insieme, tutto mentre giochiamo insieme. Le nostre esperienze ci legano e ci liberano. Per condividere le nostre esperienze più valide, creiamo storie, inventiamo strumenti e sviluppiamo l'arte del gioco. Il gioco è stato nostro alleato fin dall'alba della civiltà. Giocare non è un semplice passatempo, è la base primordiale per immaginazione e creazione. La verità è che gli Homo Ludens sono insieme anche Homo Faber, coloro che creano. Anche se la Terra fosse privata della vita e ridotta ad una landa desolata, la nostra immaginazione e il desiderio di creare sopravviverebbero, oltre alla sopravvivenza. Ci darebbero la speranza di vedere di nuovo sbocciare i fiori. Attraverso l'invenzione del gioco, la nostra nuova evoluzione ci aspetta. Hideo Kojima.